te, quello che hai dentro, quello che forse non c'è. Qualcosa sta cambiando, tu sai che è inevitabile, ma è fresco questo vento che si sta alzando ed io ti salverò. Questo fuoco